Bentrovati. Oggi facciamo un'analisi un po' particolare, partendo da alcuni spunti presi da Computers for Seniors for Dummies. Vogliamo capire come si introducono i concetti base dell'informatica ai principianti e emerge subito una direzione molto specifica. Esatto. È una guida pensata proprio per chi inizia da zero, specialmente, diciamo, per la fascia d'età dai 55 in su. E sì, c'è subito una premessa fondamentale che loro stessi chiamano, con un po' di ironia, una sciocca supposizione. Proprio quella, la sezione Foolish Assumptions. Il libro lo dice chiaro e tondo. Diamo per scontato che tu, anzi, che la persona che legge, abbia un PC. Un PC fisso o portatile? Sì, e che su questo PC ci sia Microsoft Windows, nello specifico Windows 11, nella versione di metà 2024. E la motivazione è semplice, è il sistema più comune, punto. OS, Linux, ma sono proprio solo nomi buttati lì, senza approfondire. E questa, questa non è una scelta da poco. Non è una nota a piedi pagina. Questa assunzione, basata sulla diffusione di Windows, in pratica definisce tutto il percorso di apprendimento che viene proposto nel libro. È vero. L'intera struttura della guida è costruita intorno a Windows. Ci sono sezioni intere, tipo Getting Up to Speed with Windows o Windows Toolkit. È tutto lì. Assolutamente. E se si guarda l'indice, questa focalizzazione è lampante. Non è solo un'infarinatura generale su Windows, tipo i capitoli 4, 5, 6 sull'uso delle app, dei file, sulla personalizzazione. No, va molto più a fondo. Esatto, si entra proprio negli strumenti specifici dell'ecosistema Microsoft. La navigazione web si fa con Edge, capitolo 8. La posta elettronica con Outlook, capitolo 10. E tu hai Teams per connettersi, OneDrive per il cloud, capitoli 12 e 11. È un pacchetto bello e pronto, praticamente. Ma non finisce qui. L'integrazione è ancora più profonda. Anche argomenti chiave come la sicurezza, capitolo 18, o la manutenzione, capitolo 19, sono visti quasi solo nell'ottica di Windows. Vero, vero. E perfino le cose di tutti i giorni, Gestire le foto, fare piccoli video. Ti insegnano a usare le app integrate, Photos, Clipchamp, capitolo 15, la musica, con Media Player, capitolo 16. Tutto fornito da Microsoft. In pratica stai dicendo che si impara a usare il computer attraverso gli strumenti Microsoft, un ambiente dove tutto è pensato per funzionare insieme, in modo molto molto stretto. Proprio così. Penso all'account Microsoft che serve per un sacco di cose, o alla distinzione che fanno tra le app del Microsoft Store e le app desktop più tradizionali. Esattamente. E questo è il punto, direi, cruciale. Il percorso non è neutro. Lega l'utente in modo molto forte all'ambiente Microsoft. Impari a fare tutto. Comunicare, gestire i tuoi dati, proteggerti. Ma lo impari lì dentro. E questo crea quella che abbiamo chiamato una sorta di dipendenza. Quasi una sudditanza. Sì, è un termine forte, ma rende l'idea. Una sudditanza rispetto alla piattaforma che domina il mercato. E questa impostazione si vede anche quando si parla di hardware, giusto? Mi ricordo il capitolo sull'acquisto. Il primo. Sì, capitolo 1. Parlano di CPU, di memoria SSD, cose generiche. Ma poi quando descrivono i tipi di computer, desktop, all-in-one, portatili e le connessioni USB, HDMI, Wi-Fi, l'idea di fondo è che su quelle macchine girerà Windows. Certo, è tutto collegato. La guida, alla fine, riflette la realtà del mercato, che è dominato da Windows. E così facendo, diciamo, incanala chi legge verso un percorso quasi obbligato. Obbligato in che senso? Nel senso che la prima scelta, quella del sistema operativo, finisce per influenzare pesantemente tutte le scelte successive. Quali software userai, quali servizi online, perfino quale hardware sarà più compatibile o facile da usare. Capisco. Il manuale non ti mette davanti un ventaglio di possibilità equivalenti. Si concentra sul renderti operativo, efficiente, ma dentro quell'ambiente specifico. È un po' come imparare a guidare usando solo le mappe e le stazioni di servizio di una singola compagnia. Diventi bravo lì dentro, certo, ma rimani legato a quel sistema. Quindi, più che un corso di nuoto generico, è un corso per nuotare in una piscina ben definita, con le sue corsie e i suoi bordi. In sintesi, sì. La guida è sicuramente utile per chi comincia, non c'è dubbio, ma illustra perfettamente come scegliere il sistema operativo più diffuso possa creare un percorso quasi vincolato, una specie di corsia preferenziale verso tutto l'ecosistema di prodotti e servizi che ci sta attorno. Questa forte integrazione, questa sudditanza tecnologica che la guida mette in luce. Esatto. La struttura stessa del libro lo dimostra. Ci porta a una domanda finale, forse un po' provocatoria. Quanto questo sistema operativo predefinito, quello che trovi sulla maggior parte dei PC, finisce per plasmare non solo come facciamo le cose al computer, ma anche quali cose ci sembrano normali, accessibili o perfino immaginabili, specialmente per chi sta muovendo i primi passi nel digitale?